Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi con Italia in controluce, due edizioni quotidiane, 6.30, 13.30, Radio 24 torna nei luoghi in cui si sono svolti i fatti, per vedere se le cose sono cambiate, se le promesse sono state mantenute. Ad esempio, che cosa è accaduto dopo i fatti di Rosarno? Dove sono finiti gli immigrati cacciati a colpi di pistola e di spranga da alcuni cittadini? In quali altri luoghi del sud si sono invece integrati? In quali restano a vivere in forti contraddizioni? Sentiamo Cristina Carpinelli. La chiamano aiurnata. Fare aiurnata significa raccogliere mandarini o arance a cottimo. Vieni pagato a cassetta. Più ne raccogli, più aumenta la paga. Ma il prezzo cambia da agricoltore ad agricoltore e a volte non ti pagano neanche. Lo stomaco brucia per la fame e per riempire quel buco, se mangi arance o mandarini, lo stomaco brucia ancora di più. Gli agricoltori dicono di pagare una media di 25 euro al giorno ai braccianti stranieri, ma sembra non sia vero. In ogni caso, se consideriamo che una cassetta pesa 25 kg, significa che gli immigrati devono riempirne 25 di cassette, perché la regola più o meno comune parla di un euro a cassetta. L'hanno chiamata la guerra dei poveri e dicono che si estenda come un male lungo il sud Italia e le responsabilità sono di tutti, ci dice il sindaco di Riace, Domenico Lucano. Per anni e anni, con le complicità dello Stato, perché nelle sue varie articolazioni, ad esempio l'Ispettorato del Lavoro, anche organizzazioni sindacali, anche la Protezione Civile, anche i commissari prefettizi, che come lo sanno è stato spesso commissariato per problemi di mafia, il Comune, anche le pubbliche amministrazioni, nessuno ha fatto finta di conoscere, di sapere che la esisteva una realtà drammatica in cui venivano schiavizzate le persone. Domenico Mondello, che è amministratore delegato del Consorzio Agricoltori di Rosarno, dice che l'anno prossimo sarà uguale. Ma se un produttore deve assumere, pagare tutte le tasse di questo mondo, credo che ce la faccia a fare la raccolta degli agrumi. Tragico e ineluttabile sembra il destino di queste terre del sud, ma non è così. Riace è l'esempio opposto, ce lo racconta Domenico Lucano, il sindaco di questa città calabrese che ha trasformato il suo comune in un esempio di accoglienza. Adesso a Riace ce ne sono 200 immigrati, prevalentemente di nazionalità della Palestina, dell'Afghanistan. Abbiamo persone che lavorano nelle botteghe artigiane, delle persone che lavorano nel settore del turismo solidale, perché questo ha fatto nascere anche delle opportunità che erano impensabili per un piccolo borgo che si stava spegnendo. La storia di Riace l'ha raccontata anche Wim Wenders nel film Il Volo, ma è una storia quasi marginale in un sud dove è Rosarno a fare da maestro. E oggi la polveriera è in Puglia, dove si segnalano scomparse di immigrati e morti sospette. Ogni anno qualcuno si ferisce gravemente, ogni anno qualcuno di noi muore, i corpi scompaiono. Ogni volta che qualcuno si fa male chiediamo un'ambulanza, ma l'ambulanza non arriva mai, dice questo ragazzo africano intervistato da Medici Senza Frontiere. Every year somebody dies. Ambulance, phone ambulance, ambulance will never come. 3,50 euro. 3,50 euro, pagato solo di macchina. Quanto tu mangiare? Ogni anno la CGIL di Foggia organizza le ronde nei campi contro lo sfruttamento dei raccoglitori di pomodori. Ci sono 70.000 persone. Nonostante l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, nonostante la nascita di nuove leggi per tutelare i lavoratori, la situazione è talmente grave da essere disarmante. Daniele Calamita, segretario provinciale della FLAI CGIL Foggia, da 10 anni va per le campagne a parlare con i lavoratori e i loro caporali, rischiando anche la vita. Nella raccolta del pomodoro persiste questa condizione, ma essere trattati come schiavi, per come la vedo io, significa sottostare sotto le angherie di un caporale, del cosiddetto capo, lo chiamano questi lavoratori immigrati, il loro caporale, che ti costringe a lavorare per 10-12 ore al giorno per una paga ridotta, di fatto ti sta schiavizzando. Se ti fai male durante il lavoro non hai nessun tipo di tutela, ti lasciano in campagna a morire i caporali. Ci siamo trovati baraccopoli costruite con legni, tavole di legno e celofan di plastica dove ci vivevano 1.000 persone. Ci siamo trovati di fronte datori di lavoro che ci hanno materialmente tirato pietre, che hanno cercato di speronarci con i muletti. Il 65% degli immigrati che lavorano nei campi del sud Italia non ha accesso all'acqua e deve percorrere molti chilometri con le taniche sulla testa per poter bere ogni giorno. Il 100% non ha accesso a cure mediche. Gli unici ad andare periodicamente a verificarne lo stato di salute sono i volontari di Medici Senza Frontiere. Oltre il 70% degli immigrati che lavorano nei campi del sud Italia non ha una casa. Italia in controluce. I rifiuti e Napoli. Le cronache ci dicono che anche se non si vedono più le scene di un anno e mezzo fa, con interi quartieri del capoluogo campano sommersi dalle immondizie, i problemi strutturali restano nei giorni in cui si torna alla gestione ordinaria dei rifiuti. Ma sarà proprio così? Da Napoli, Enzo Danna. Dopo 16 anni di poteri straordinari, commissari e decreti legge ad hoc, si torna alla gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti, ma restano ancora nodi spinosi da sciogliere e molte incognite. Rifiuto, ogni angolo è un rifiuto. La sensazione è che fino a quando non saranno entrati in funzione tutti gli impianti previsti, la questione rifiuti sarà tutt'altro che risolta e senza l'apertura di nuove discariche si corre il rischio che prima o poi la monnezza torni ad invadere le strade della Campania. Mezzo mare vuoto cresce a schiumazzo passato. Ogni giorno nella regione vengono prodotte 7.000 tonnellate di spazzatura ed è più che lecito domandarsi dove vadano a finire. Attualmente sul territorio sono attive 6 discariche a norma, 7 impianti STIR dove i rifiuti vengono sottoposti a tritovagliatura e successivamente imballati, un termovalorizzatore di ultima generazione che funziona però a scartamento ridotto. L'obiettivo dei comuni è quello di ridurre a monte i rifiuti da trattare attraverso la raccolta differenziata, che però funziona poco e male. Intanto a macchia di leopardo sul territorio tornano a fare capolino i cumuli di spazzatura indifferenziata e persino sacchetti con scarti e rifiuti destinati alla differenziata che la gente non sa dove collocare, ma non basta. A Chiaiano, teatro di interminabili proteste dei comitati antidiscarica, si continuano a denunciare sversamenti abusivi laddove una parte del terreno è sommersa da un vero e proprio lago di percolato. Mi rinchiudo in una stanza. In un quadro ancora desolante resta in piedi la questione di milioni di ecoballe prodotte negli anni e attualmente accatastate che dovrebbero essere smaltite nei termovalorizzatori, così come il nodo della mancanza di impianti di compostaggio che costringe i comuni ad esportare la loro immondizia fuori regione. Maramao, sei vivo o morto, la monnezza t'ha sepolto. Su tutto l'ombra della camorra, sempre pronta ad infiltrarsi nel ciclo dei rifiuti, settore che per decenni ha costituito un canale di straordinario arricchimento per le organizzazioni criminali. Italia in controluce. Pomigliano d'Arco, il comparto produttivo più conosciuto, si trova ad est di Napoli, a nord di Napoli. È Napoli, ma ad un altro nome. La crisi economica colpisce anche qui, nella città della Fiat, anche se non mancano importanti eccellenze. È la tamurriata dell'Alfa Sud, cantata dal gruppo operaio dei Zesi di Pomigliano, che sancisce il momento più intenso della lotta operaia nel Mezzogiorno, una lotta partita proprio da questa città del napoletano, sin da allora ritenuta la più industrializzata del sud. Sono trascorsi 34 anni, ma qui ben poco è cambiato. Cassa integrazione allora, cassa integrazione oggi, con la differenza che nel frattempo, in 30 anni dopo l'avvento di Fiat all'ombra del Vesuvio, intorno sono nate centinaia di piccole aziende che costituiscono l'indotto auto, molte delle quali proprio negli ultimi mesi, trascinate dalla crisi che ha colpito il Lingotto, sono state costrette a chiudere i battenti. E così, degli oltre 20.000 addetti al settore automobilistico del comprensorio, oggi almeno la metà è sparita. Gli altri tengono duro con la speranza che tra un anno davvero si possa produrre la nuova Panda. Il comparto produttivo di Pomigliano, per fortuna però, non è soltanto auto, ma anche aeronautica. Qui la Alenia, ex Air Italia, ha fatto le sue fortune ed anche quelle di centinaia di giovani ingegneri, di quasi 1.000 operai, che almeno fino a ieri potevano dire di non conoscere la crisi. Anche per loro nei prossimi mesi si profila qualche stop, ma non certo paragonabile a quello dei colleghi della Fiat Auto, che proseguirà comunque fino a novembre nella migliore delle ipotesi. Insomma, la situazione non è proprio del tutto nera, ne è convinto Giovanni Sgambati, segretario generale della Wilm Campania. Pomigliano indubbiamente sta vivendo una fase molto difficile, ma contemporaneamente a una grande crisi abbiamo anche una realtà storica di metalmeccanici in forte espansione. Contemporaneamente abbiamo lavoratori, migliaia di lavoratori in cassa integrazione e centinaia di lavoratori che invece svolgono attività verso il futuro, se penso ad Alenia, a Elasis, alla stessa Avio, che in contemporaneità a una fase di crisi stanno addirittura avendo problemi di straordinari, come molto spesso può capitare, e quindi rimane un forte territorio a vocazione industriale e manifatturiera. La crisi del comparto produttivo locale ha trascinato quasi tutti gli altri settori economici, in primis quello del commercio. Aldo Andrisani è il presidente dell'ASCOM di Pomigliano d'Arco. Sì, aprono e chiudono, quello poi, diciamo che anche la speranza del commerciante oppure di chi apre un negozio è l'unica speranza, un po' con queste fabbriche, ogni genitore pensa di aprire anche con la liquidazione un negozio ai figli, poi sono accorto che questo non è un momento abbastanza particolare, pertanto poi vedi, su 10 che aprono ne chiudono 15. Per paradosso tiene invece un altro segmento di questo territorio, che qui, crisi malgrado, produce da sempre occupazione ed è quello dello spettacolo. A Pomigliano, per esempio, esiste l'unica scuola pubblica di avviamento professionale alla danza di tutto il Mezzogiorno. E sempre, nella città dell'auto, è nato ormai da 15 anni uno dei più importanti festival di jazz nazionali. Onofrio Piccolo è il presidente della Fondazione Pomigliano Jazz. Nasce su un territorio particolare come quello di una città industriale come Pomigliano d'Arco, dà la possibilità a tutti in qualche modo di cogliere opportunità di crescita ed è un territorio che attorno a questo progetto ha sviluppato tante attività, tante attitudini. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Daniele Biacchesi vi saluta, le puntate di Italia in Controluce sono tutte disponibili su www.radio24.it. Le vostre domande sui temi trattati e le proposte sui problemi, le eccellenze delle città potete da subito inserirle sulla bacheca del gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce oppure ad esempio inviarle via mail a controluce@radio24.it. Italia in Controluce torna domani alle 6.30.